Questi magari sarebbe meglio metterli tutti in muto, perché sennò se arrivi c'è io, se arriva dell'altra roba. Io ti lascio solo Sergio, tu devi lasciare solo Gianni. Ah no, io ho messo muto anche qua. Okay. Dove dici? Vedi, mute questo qua, perché sono altre persone che potrebbero suonare. E anche questo qua. Okay. Vedi che comunque arriva sempre in ritardo. Sempre tutto in ritardo. Però la voce la sento subito. La voce la senti subito. Ma a me mi arriva in ritardo. Come va? Non so, devo richiedere forse a Dario. Mi ha sentito tutto subito. Adesso basta, non finito. Ecco, è arrivato. Quello lo faceva anche, che arrivava leggermente in ritardo. Non so, vedi, perché qua teoricamente l'audio c'è. C'è tutto, riceve, mute, tutto a posto. Provo un attimo a chiamare Master, cos'è? Prova qua. Se arriva. Mm-hmm. Allora, così non arriva un gatto. Non capisco perché non c'è l'audio qua. Doveva arrivare l'audio dal computer. Ma no, perché sono dentro la scheda. Proviamo a togliere la scheda e entrare direttamente. Ma quella per... cioè perché? Perché si sente meglio. Ah. Si sente molto meglio. Infatti teoricamente poi dovresti avercela anche tu. Perché. Ma che c'è? Ma cosa serve di fatto? Serve per avere maggiore possibilità, però potremmo anche tentare anche di non essere un po' un attimo, però non so se funziona il cosa, mi puoi il giacchetto.